Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nei libri di storia del calcio italiano, l'aggettivo grande è ufficialmente associato soltanto a due squadre. La prima è il Grande Torino degli anni 40. Questa formazione granata, già campione d'Italia nel 42-43, sarà protagonista di un clamoroso quinquennio analogo a quello juventino degli anni 30. Vincerà 4 scudetti di seguito, darà alla nazionale un contributo determinante per la prima riscossa del calcio azzurro. Sarà la base del vero e proprio boom. La seconda squadra ad essere tradizionalmente considerata grande è l'Inter degli anni 60, che è anche lo sfondo determinante della nostra storia di oggi. Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Il centro sportivo in cui si allena oggi la squadra nerazzurra si chiama Angelo Moratti proprio in omaggio al presidente di quella leggendaria squadra ed è stato costruito nel periodo della grande Inter. Si tratta di un segno evidente che l'Inter è quanto mai legata alla sua storia e considera giustamente imprescindibile quel ciclo di vittorie che l'avevano portata stabilmente sul tetto del mondo. La stagione della grande Inter si fa iniziare solitamente con l'arrivo sulla panchina nerazzurra del mago, l'allenatore argentino Elenio Herrera. Fino a quel momento l'Inter di Angelo Moratti aveva ottenuto magrissime soddisfazioni, relegata in secondo piano dal Milan di Rizzoli e dalla Juventus degli Agnelli. Herrera, nei piani del petroliere, deve essere l'uomo del riscatto. Perché la chiamano il mago? Mi hanno chiamato già in Francia, in Spagna e in Italia perché ogni club che io alleno con gli stessi giocatori aumenta di molto il suo rendimento, il suo incassi e il suo prestigio. Ma io non sono un mago, io sono un allenatore che lavoro e che ho bisogno di bravi giocatori come qui nell'Inter. Elenio Herrera, prima di arrivare a Milano, allenava in Spagna. 4 campionati, 5 Coppe del Re, 3 Coppe delle Fiere e il suo bottino sulla panchina del Barça. Ladislao Kubala e Luisito Suarez erano le stelle dei Blaugrana guidate dal mago. Nel 1960 la squadra spagnola era arrivata finalmente in finale di Coppa dei Campioni, traguardo a lungo inseguito, ma aveva perso. Tra Herrera e l'astro Kubala erano state scintille. L'allenatore argentino aveva iniziato così a pensare che fosse meglio cambiare aria. Qualche mese prima, a Barcellona, si era disputato un match internazionale tra la squadra allenata dal mago e l'Inter. Era finita 4-0 per i Blaugrana e Moratti era rimasto incantato dal gioco e dalla determinazione degli spagnoli. A stregare Moratti era stato anche il gioiello del Barça, Suarez. Per il momento, però, ai piedi della Madunina, Moratti decide di portare solo l'allenatore. Il contratto che Moratti offre all'allenatore argentino è a dir poco faraonico. $100.000 di ingaggio e premi partita doppi, calcolati sulle vittorie delle squadre nerazzurre di ogni livello, dalla prima squadra all'intero settore giovanile. Per la prima volta a un solo tecnico viene affidata la gestione di tutto il vivaio, di tutto ciò che costituisce il pianeta Inter. Il mago non rifiuta certo questa incredibile offerta e, attorniato dalla curiosità dei media, sbarca a Milano, obbligato a vincere. Elenio Herrera è uno dei primi allenatori a portare in Italia il concetto di centro d'allenamento privato. Un concetto che si traduce presto in pratica. La Pinetina di Appiano Gentile è il moderno centro polifunzionale dove i nerazzurri si allenano proprio dai tempi del mago e che Moratti fa costruire su richiesta esplicita dell'allenatore argentino. Herrera inoltre cambia il modo di allenarsi dell'Inter. Poca teoria e pochi allenamenti senza pallone. I giocatori si devono divertire e per farlo devono avere sempre la palla tra i piedi. Accanto a questo, nuovi moduli tattici e tantissimo lavoro sulla testa. Il mago vuole un gruppo unito, vincente, spavaldo, sicuro di sé. Vuole però soprattutto un gruppo che sia in perfetto equilibrio tra esperienza e gioventù. Vuole un cocktail tra la sapienza tattica dei senatori e la sfrontata esuberanza dei giovani più dotati. Così va subito a pescare dei ragazzi dal settore giovanile per aggregarli alla prima squadra. Tra questi, subito, nel suo primo anno di Inter, ne individua uno destinato a segnare la storia del club nerazzurro, destinato a diventare un mito, un totem per i tifosi interisti. Giacinto Facchetti. Giacinto Facchetti. Giacinto Facchetti è uno dei grandi nomi di quella squadra, anzi si potrebbe dire che di quel team fenomenale Giacinto era forse uno dei più forti, uno dei pilastri fondamentali. La sua figura è importante per tutta la storia del calcio, molto di più di quanto si tenda a credere. Facchetti è stato un interprete rivoluzionario di un ruolo tra i più antichi del calcio, il terzino. Si può affermare, con ben pochi timori di smentita, che il ruolo del terzino, almeno in Italia, può essere diviso in due ere. Prima dell'avvento di Facchetti, e dopo. È una questione di personalità. Possiedi personalità, una personalità dolce, personalità guardi, personalità ridi, personalità baci, personalità. Per questo hai rubato il cuore, è vero, è vero, son pazza da amar per te, mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te. Il terzino nell'accezione comune è il difensore laterale. Tale denominazione deriva dal fatto che agli albori del calcio si giocava tradizionalmente con una difesa a tre uomini. I due esterni erano definiti terzini, mentre oggi questa parola è utilizzata per i laterali di una difesa a quattro. Nella prima era dei terzini, questi erano giocatori arcigni, poco tecnici e molto difensivi, custodi e a volte carnefici dei giocatori d'ala avversari. Molto dotati fisicamente, prestanti, erano macchinosi nei movimenti e scarsi nel palleggio. In Brasile, già a partire dagli anni 30, nascono i terzini offensivi. Scarsi sul piano del contenimento, erano delle ali arretrate che sapevano attaccare, erano forti tecnicamente, velocissimi e spesso brevi linei e leggeri. Due tipologie, quindi, o l'una o l'altra. Mai ad un terzino era chiesto di essere entrambe le cose contemporaneamente. Mai. Fino all'avvento di Giacinto Facchetti. Si tratta di un tipo straordinario, un candido. Alto 1,86 m, da ragazzo riusciva splendidamente in atletica leggera. Per questa sua costituzione non sembrerebbe adatto a fare il terzino d'ala. Facchetti, come è andato all'Inter? All'Inter sono arrivato 5 anni fa e provenivo da una squadra di dilettanti, la Trevigliese. A che pensa quando entra in campo? Ma quando entro in campo penso all'avversario che ho di fronte, se è un avversario difficile. E penso di far bella figura se si può. Insomma. Le piace più segnare gol o impedire agli altri di segnarli? Segnare. Facchetti nasce a Treviglio il 18 luglio 1942. Il papà è un ferroviere e di queste umili origini il difensore nerazzurro non si dimenticherà mai, facendo propri quel basso profilo e quel garbo che l'hanno sempre reso un campione anche fuori dal campo. Ha tre sorelle e un fratello e la sua famiglia vive nelle case popolari del paese di Treviglio. Ricorda i suoi esordi il compianto ex direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. Nasce dalla strada. Lui, siccome era cattolicissimo e la famiglia andava alla chiesa, c'era il famoso oratorio della sua chiesa di Treviglio. Là nasce, in un oratorio. All'oratorio Giacinto Facchetti inizia a giocare a calcio quando ha 12 anni. Ha però un talento naturale che si mette subito in mostra, tanto che nelle partitelle tra amici è il più conteso fra i ragazzini dell'oratorio. Dall'oratorio alla Trevigliese, così il passo è breve. Nella squadra dei dilettanti del suo paese, Giacinto mostra subito delle doti singolari. Ama giocare in difesa, ma poi si spinge in attacco con grande frequenza ed efficacia. Con un'intelligenza tattica insolita in un ragazzino, capisce benissimo i tempi delle sue folate, sa dosarli perfettamente. Gli osservatori dell'Inter, sempre attenti a scovare nuovi talenti su tutto il territorio lombardo, lo prelevano e lo portano nel settore giovanile dei nerazzurri. Nell'estate del 1960, Facchetti viene aggregato alla prima squadra per la preparazione estiva. A fine stagione, il 21 maggio 1961, Giacinto esordisce in prima squadra quando ancora non ha compiuto 19 anni. Racconta la sua prima convocazione un suo caro amico di Treviglio, Arturo Bondioli. Mi ha raccontato che una volta avevano finito una partita, non so se era Primavera o Juniores, e sentono dire arriva, era Herrera. Herrera ha fatto il giro, è andato nello spogliatoio, è stato là un po' a guardarli tutti e gli ha detto: Facchetti, tu domenica vieni a Roma con me. Mi ha detto che gli è gelato il sangue nelle vene e l'ha portato a Roma. Lui credeva che faceva panchina, invece l'ha fatto giocare subito. Titolare in campionato contro la Roma. Herrera inizia a plasmare la sua Inter e vede in Facchetti un elemento fondamentale. Con Giacinto il mago inventa un ruolo, il terzino fluidificante, che difende e spinge, tampona e riparte. A 16 anni Facchetti era arrivato in finale ai nazionali di atletica sui 100 metri, per cui è rapido, atleticamente dotato ben sopra la media, è insomma un giocatore moderno. In quell'esordio deve vedersela con un'ala come Ghiglia, affermato campione uruguaiano dei giallorossi. È un ottimo esordio che gli fa guadagnare rapidamente una maglia da titolare e la stima dell'allenatore, come ricorda l'attuale presidente dell'Inter Massimo Moratti, figlio dell'allora patron nerazzurro Angelo. Giacinto l'ho conosciuto quando aveva iniziato a giocare nell'Inter. Era un ragazzo giovane, io ero un paio d'anni più giovane di lui. A Herrera piaceva moltissimo questo fatto che lui fosse assolutamente dedito al suo lavoro e che seguisse Herrera con assoluta attenzione. E poi Herrera aveva fatto una scommessa su di lui a cui nessuno credeva nelle prime partite, soprattutto i giornali, che sarebbe stato il giocatore che sarebbe andato per primo in nazionale. L'ha visto subito come un mito. E questo naturalmente i giornali hanno preso anche un po' in giro Herrera all'inizio. Invece Facchetti si conquistò questa cosa e divenne il giocatore che aveva giocato di più in nazionale, con maggiori presenze. La stagione 1960-1961 vede i nerazzurri arrivare al terzo posto. È l'anno del caso dell'invasione di campo nella sfida scudetto contro la Juventus e del 9-1 per i bianconeri nella controversa ripetizione di quel match, quando l'Inter schiera per protesta le riserve. L'anno successivo è il primo che Facchetti fa interamente nella prima squadra. Come terzino sinistro colleziona 15 presenze, diventando verso la fine della stagione titolare fisso. L'Inter giunge seconda, a 5 punti dal Milan. La difesa sembra essere uno dei punti di forza della squadra di Herrera, che pure sembra avere una certa vocazione offensiva. Facchetti è il più dotato della retroguardia. In mezzo giocano il rude marcatore Aristide Guarnieri e il libero Armando Picchi, una sorta di allenatore in campo dell'Inter. Tra i pali, in quei primi anni, Lorenzo Buffon, che sarà poi rimpiazzato da Giuliano Sarti. Per la stagione 1961-62, quella in cui Herrera deve necessariamente vincere, servono degli ulteriori rinforzi. Per quanto riguarda la difesa in particolare, serve un difensore esterno che possa garantire solidità e qualità anche dal lato opposto rispetto a quello di Facchetti. Herrera opta così per un giocatore che sia l'opposto a livello di caratteristiche di Giacinto. Un terzino destro duro, arcigno, di impostazione tradizionale, che possa garantire copertura, forte di testa. Va a comporre in questo modo la coppia di terzini più celebre del calcio italiano, facendo la fortuna dell'uno e dell'altro. L'altro, in questo caso, naturalmente, è Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic. Era un gruppo di giocatori che accettavano le decisioni dell'allenatore, nello stesso tempo eravamo molto amici. Burnic viene prelevato nell'estate 1962 dal Palermo per 100 milioni di lire. Ha 23 anni, è nato a Ruda, in Friuli, nel 1939. Il suo soprannome parla da solo, Roccia. Emblematico anche il modo con cui se lo procura. Pare che durante una partita di Serie A, Carlo Novelli, attaccante della Spalla, rimasto a terra dolorante dopo uno scontro con Burnic, avesse detto ai medici: «Credo di essermi scontrato contro una roccia». Burnic è timido, un ragazzo di poche parole, carattere introverso. Il suo caso è uno dei pochi grandi errori di valutazione della Juventus, che lo preleva dall'Udinese, lo fa giocare una stagione e poi lo cede al Palermo. Dal Palermo Herrera e il manager della grande Inter, Italo Allodi, lo acquistano riportandolo a lottare per il titolo. L'integrazione con Facchetti è subito splendida. Uno a destra, l'altro a sinistra, uno offensivo, l'altro implacabile marcatore di attaccanti a cui si incolla come un francobollo. Burnic è la roccia. Facchetti si guadagna un altro altisonante epiteto, il grattacielo di Treviglio, per la sua imponenza. Burnic in tempi recenti ha raccontato a un noto quotidiano il suo primo memorabile incontro con Giacinto Facchetti. Ci siamo conosciuti nel 1962. Stavamo davanti a Elenio Herrera, che assegnava i posti nel ritiro dell'Inter. Io e lui fummo sistemati nella stessa camera e insieme siamo stati fino al 74, quando io me ne sono andato. Sarà anche perché dopo il portiere, che in quel primo anno è ancora Buffon, nella lettura della formazione vengono proprio loro due, ma Burnic e Facchetti si stampano da quell'anno nell'immaginario dei tifosi nerazzurri. La loro è una cavalcata trionfale che inizia nel 1962 al Meazza e li vedrà insieme in giro per il mondo, anche con la maglia della nazionale. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. Destini incrociati. Sarti, Burnic, Facchetti. Così inizia la formazione della grande Inter. Oggi vi raccontiamo la storia della fantastica coppia di terzini nerazzurri, Giacinto Facchetti e Tarcisio Burnic, due nomi che nell'immaginario di migliaia di tifosi vengono costantemente associati. Il loro incontro avviene nella stagione 1962-63, è la prima in cui Facchetti, appena ventenne, diventa titolare inamovibile, ed è la prima di Burnic con la maglia nerazzurra, appena comprato per 100 milioni dal Palermo. Con altri piccoli ritocchi nel 1962, l'Inter è pronta per diventare la compagine in grado di dominare il mondo. Burnic e Facchetti sono l'emblema di questa squadra, professionisti impeccabili anche fuori dal campo, mai una parola fuori posto, interamente dediti al lavoro, maniacali nel curare ogni aspetto della loro vita da atleti. Facchetti, in particolare, suscita in questo anche l'ammirazione dei compagni, nonostante la giovanissima età. Dice di lui, ad esempio, Sandro Mazzola. Soprattutto, comunque, era uno che credeva molto nel lavoro. Si dedicava moltissimo al lavoro sul campo, beveva tutto quello che Herrera insegnava, sia in campo sia fuori, nel tenersi, nel mangiare, nel bere, in tutte le cose. Era pignolo, era un professionista. Già i primi anni era un professionista perfetto. E già in quella prima stagione Giacinto Facchetti fa esaltare una grande penna dello sport come Gianni Brera. Ricorda la passione di Brera per Facchetti, Gianni Mura. È noto che aveva ribattezzato Facchetti il mio centravanti personale e lo ha esaltato da subito, e conoscendo bene Brera i motivi sono facilmente intuibili. Intanto Facchetti era lombardo e poi era nibelungico, era alto, era biondo. E poi Brera, che aveva cominciato a scrivere di sport partendo dall'atletica leggera, piacevano quelli che avevano anche uno stile di corsa, e quindi Facchetti gli piaceva anche per questo suo modo di correre a testa alta, scegliendo sempre la linea più breve tra sé e la porta. Quello che sorprendeva, soprattutto agli inizi, poi avevamo imparato a conoscerlo, è che lui attaccava scegliendo bene i tempi dell'inserimento, ma spesso non attaccava lungo la fascia come oggi fanno i terzini cosiddetti fluidificanti. Lui attaccava tagliando il campo e cercando di andare in qualche modo a finalizzare. Facchetti e Burnic sono il simbolo di quello che Herrera chiede ai suoi atleti, la totale serietà nel lavoro. In un calcio che ancora poteva essere definito professionistico, solo tra virgolette, Herrera rivoluziona l'approccio al gioco, curando tutti i dettagli fino nei minimi particolari. Facchetti e Burnic sono fra i primi a seguirlo al 100%. Alla fine del 1963 l'Inter festeggia l'ottavo scudetto, il primo dell'era Moratti. L'anno dopo i nerazzurri vincono la loro prima storica Coppa dei Campioni. Quella 1963-64 è un'edizione molto particolare della Coppa dei Campioni per l'Italia, anzi per Milano. Partecipano l'Inter, campione nazionale, e il Milan, che ha vinto il trofeo l'anno prima. Le due squadre arrivano ai quarti di finale, c'è già chi sogna uno storico Euroderby. Poi però i rossoneri escono contro il Real Madrid ai quarti. L'Inter in finale a Vienna se la deve vedere con i Blancos. 27 maggio 1964, Vienna, Inter-Real Madrid, finale di Coppa dei Campioni. Al seguito dei nerazzurri e del mago, 20.000 tifosi, tra loro Angelo Moratti. I Blancos hanno ancora il mito di Stefano tra le proprie fila. Non basterà. Facchetti gioca una partita sontuosa. Burnic cancella dal campo proprio Di Stefano e l'altra stella madridista, Ferenc Puskás. Mazzola, rete, 3-1. Ecco il signor Stoll, ottimo direttore di gara, che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni. L'Inter è sul tetto d'Europa. Lo scudetto le sfugge nello storico spareggio con il Bologna perso 2-0. Ma l'anno successivo, stagione 1964-1965, l'Inter vince tutto. Lo scudetto, la Coppa Intercontinentale, cioè il mondiale per club contro gli argentini dell'Independiente. I nerazzurri potrebbero essere appagati. Proprio Burnic ricorda l'abilità che aveva Herrera nel tenerli sempre sulla corda. L'Herrera diceva sempre, finita una gara, ricordo la gara di Coppa del Mondo in Argentina, arriva l'una di notte che noi stavamo un po' festeggiando e dice: ragazzi, andiamo a letto che bisogna pensare già da domani mattina al Varese che incontriamo domenica. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Il terzo trofeo di quell'annata indimenticabile è la seconda Coppa dei Campioni. Vittoria più sofferta dell'anno precedente e forse per questo ancora più memorabile. I nerazzurri avanzano indisturbati fino alla semifinale. Qui incontrano i campioni d'Inghilterra del Liverpool. Nella partita d'andata in trasferta, l'Inter viene sonoramente battuta per 3-1. La squadra non gira, l'inglese Hunt fa ammattire Burnic. Al ritorno serve l'impresa e l'Inter deve vincere con 3 gol di scarto per qualificarsi. Il popolo nerazzurro ci crede. 80.000 interisti affollano San Siro, nonostante la pioggia battente. La squadra di Herrera gioca la partita perfetta. Corso apre su punizione. Peiro raddoppia con un gol che ha dell'incredibile, segnato rubando la palla al portiere che stava palleggiando in area prima del rinvio. Il 3-0 porta la firma proprio di Giacinto Facchetti. È una rimonta epica. Tutta l'Italia calcistica, a prescindere dal tifo, si rivede in quell'Inter e sobbalza al gol di Facchetti. È un gol di incredibile bellezza. Un'azione tutta di prima, iniziata e conclusa da Facchetti, che attraversa tutto il campo a una velocità che non sfigurerebbe nemmeno nel calcio di oggi. Lui, terzino sinistro, batte il portiere del Liverpool con un gran destro. È il gol più importante di tutta la sua carriera, quello che spalanca all'Inter le porte della finale. La finale si gioca a San Siro. Già qualche anno prima una squadra si era trovata a disputare la finale di Coppa dei Campioni nel proprio stadio di casa. Nel 1957 la scelta era caduta su Madrid e in finale era arrivato proprio il Real, che le aveva suonate senza sconti alla Fiorentina, 2-0, sfruttando il favore del fattore campo. L'Inter si gioca la Coppa e affronta i portoghesi del Benfica. Un'intera città è in fibrillazione, nonostante la pioggia battente. Davanti allo stadio non si contano le bancarelle che vendono sciarpe, magliette, cuscinetti. Poi ci sono i bagarini. I biglietti infatti sono esauriti da giorni, ma fuori dal Meazza improvvisati faccendieri smerciano tagliandi per l'incontro. La pioggia però ha rovinato i loro affari. Non sono così tanti coloro che si sono mossi verso lo stadio all'avventura, privi di un biglietto, sperando di recuperarlo all'ultimo. Contrattando un po', qualcuno se lo aggiudica per poco più di 1.000 lire. Non è tanto per vivere una notte da sogno. In quella stagione, l'Inter ha compiuto un'altra grande impresa, la rimonta sui cugini del Milan per andare ad aggiudicarsi il 9° scudetto. Il prestigioso settimanale Calcio e Ciclismo Illustrato ha poi assegnato un premio importante alla squadra nerazzurra, anzi a 2 dei suoi giocatori. Proprio Burnic e Facchetti sono stati eletti migliori difensori esterni della stagione. Un riconoscimento accompagnato da una lunga e dettagliata motivazione, perché sono complementari nelle caratteristiche e nel temperamento sul campo di gioco, ma sono simili nella serietà e nella professionalità. Due campioni quindi che si completano a vicenda e che scendono in campo per portare ai nerazzurri la seconda Coppa dei Campioni. E l'Inter soffre. Soffre come? Lo stadio esplode al 42esimo del primo tempo, quando Jair beffa il portiere portoghese. San Siro può festeggiare. Giacinto Facchetti, come i suoi compagni, entra nella storia di questo club. C'è qualcosa però nello stile di Giacinto che lo fa diventare presto l'immagine stessa di quell'Inter, il giocatore simbolo. Dopo il 1967 ne diviene il capitano. Intanto la nazionale di Edmondo Fabbri accoglie lui e il fido compagno di difesa Tarcisio Burnic, pronti a diventare i padroni delle fasce anche in maglia azzurra. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di due bandiere del calcio, due bandiere dell'Inter, Giacinto Facchetti e Tarcisio Burnic. Titolari con la maglia nerazzurra a partire dallo stesso anno, entrambi terzini, uno sinistro, l'altro destro, la loro carriera incrociata procede lungo un itinerario perfettamente parallelo anche con la maglia azzurra della nazionale italiana. Burnic esordisce con l'Italia il 10 novembre 1963 contro l'Unione Sovietica. Facchetti, poco prima, il 27 marzo dello stesso anno contro la Turchia. Entrambi volano in Inghilterra nel 1966 per la sfortunata spedizione mondiale. Prima del mondiale, tra Facchetti e Fabbri, i rapporti si incrinano. Dopo un pareggio per 0-0 in amichevole, Giacinto dice alla stampa che il signor Fabbri gli impedisce di andare avanti. Lui vuole solo pareggiare e con i soli pareggi, dice Facchetti, non si andrà da nessuna parte. Fabbri, in tutta risposta, toglie dai titolari il blocco Inter, ma lascia in campo Facchetti, relegandolo a semplice marcatore. Burnic, in questo modo, disputa le prime due gare, poi viene lasciato fuori per quella famigerata contro la Corea del Nord. Facchetti gioca invece quella gara, di fatto nel ruolo di Burnic, quello del terzino difensivo. Così viene saltato da Pak Duik nell'azione che costruisce forse l'unica vera macchia della sua carriera. L'Italia torna a casa, Fabbri viene fatto fuori, Facchetti diventa capitano e Burnic titolare inamovibile. La coppia di terzini più forte d'Europa può esprimere tutto il suo potenziale. Capitano, tutti, visto i club che vengono e fanno visita alla Domenica Sportiva, lasciano il distintivo del club. Sì, e lei come capitano degli Azzurri? Naturalmente anch'io come capitano degli Azzurri ho portato un simbolo così per la simpatia. E che simbolo, grazie. Della per la Domenica Sportiva. Questa è la maglia degli nazionale. Azzurri, grazie, è il più bello. Facchetti è un capitano perfetto per la nazionale italiana, leale, pulito, carismatico, bello, prestante. Indosserà la fascia per ben 11 anni, diventando il più longevo capitano della storia della nazionale italiana. Sui campi lei è sempre stato estremamente corretto, è stato, mi sembra, espulso una sola volta in tutta la sua carriera. Sì, una volta solo perché ho applaudito l'arbitro. Altrimenti è sempre stato correttissimo, non ha mai, o almeno quello che si vedeva per televisione, è sempre stato estremamente corretto. Ma io penso che il calcio è ancora uno spettacolo e quindi bisogna evitare nel possibile di fare degli interventi pericolosi per l'avversario. La carriera di Burnic e Facchetti con la nazionale azzurra vive alcuni dei momenti più esaltanti del nostro calcio. Nel 1968, ad esempio, i campionati europei si disputano proprio nel nostro paese. Gli azzurri partono quindi con i favori del pronostico, determinati ad aggiudicarsi un trofeo che non hanno mai vinto. Con qualche colpo di fortuna, l'Italia riesce ad arrivare in finale. Clamoroso è quello che succede in semifinale. L'Italia pareggia 0-0 a Napoli contro l'Unione Sovietica dopo i tempi supplementari. Il regolamento ai tempi non prevedeva ancora i rigori. Si va al lancio della monetina. Ed ecco la fine della gara, 0-0, non ci sono stati né vinti né vincitori. Il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi. Facchetti, capitano azzurro, in pratica si gioca la finale a testa o croce. Sceglie testa e vince. Dopo 30 anni, gli azzurri arrivano a giocarsi una finale di una competizione internazionale. La finale si gioca all'Olimpico, a Roma, contro la Jugoslavia. L'Italia ha il suo secondo appuntamento con la fortuna. La Jugoslavia domina, va in vantaggio. È una squadra forte e dinamica. Sfiora ripetutamente il raddoppio. L'asso degli slavi, Zajic, fa ammattire Burnic. L'Olimpico è letteralmente ammutolito. A 10 minuti dalla fine, l'unico tiro degli azzurri, una punizione di Domenghini, porta all'insperato pareggio. La finale però non può essere decisa alla monetina. Verrà rigiocata 2 giorni dopo. E 2 giorni dopo gli azzurri, rinvigoriti e più freschi dei loro avversari, vincono 2-0. Tiro di Domenghini, Riva, rete! Anastasi! è finita. L'Italia è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Sentiamo un po' da Facchetti, per esempio, che è il capitano della nazionale. Dunque, come capitano, allora, che un giudizio su questa nazionale? Il vero gioco dell'Italia è quello visto ieri sera, perché l'Italia può giocare sempre così, solo che gli manca in alcune partite la convinzione di essere la più forte. Due anni più tardi arrivano i mondiali messicani. Sono quelli di Pelé, quelli di Italia-Germania 4-3, quelli di Burnic e Goleador, tra le altre cose, che segna il primo gol contro i tedeschi. Sono soprattutto i mondiali di Facchetti miglior difensore del torneo, di Facchetti capitano che stringe la mano di O'Reilly, la perla nera, il re del calcio, nella sfortunatissima finale persa 4-1. Dopo il titolo europeo arriva quindi un prestigioso secondo posto mondiale. Arriverà per il tandem Burnic-Facchetti un altro campionato del mondo nel 1974 in Germania. Facchetti sfiorerà il quarto mondiale nel 1978, lo perderà solo per la sua onestà. Trasformato a fine carriera in libero, ancora capitano degli azzurri, ha qualche problema a un ginocchio. A differenza di quanto avrebbero fatto altri, va dal CT Enzo Bearzotta, che lo aveva convocato per la fase finale, e gli dice: «Mister, il mio posto lo cede a uno più giovane, il mio fisico non dà garanzie». Penso di arrivare fino a 33-34 anni. Quando avrò smesso di giocare a calcio, innanzitutto vorrò deconcentrarmi un po', poi vorrò approfondire tutte le conoscenze che fino adesso non ho approfondito, infine visitare meglio quei paesi che adesso ho visitato ma non ho potuto vedere bene, e infine penso, anzi vorrò essere meno calciatore e più uomo. Sono passati molti anni ormai dai tempi della grande Inter. Tarcisio Burnic è oggi un signore elegante, ancora in forma, di quasi 73 anni. Fa l'osservatore per l'Inter dopo aver fatto l'allenatore ed essere andato in pensione. Lo ha richiamato proprio Giacinto, che dell'Inter, appesi gli scarpini al chiodo, era diventato presidente, come ha spiegato Burnic in un'intervista a un quotidiano. Sapeva che me ne stavo qui in Toscana, da pensionato, e mi ha chiamato proponendomi di buttare un occhio sulle partite che si giocavano in regione. Giacinto Facchetti, invece, non c'è più. Il 4 settembre del 2006, un male incurabile, inaspettato e improvviso, l'ha portato via, lasciando un vuoto enorme. È venuto a mancare un campione, ma soprattutto un uomo garbato ed elegante. In tutto il mondo, il capitano è stato ricordato come uno dei più forti e corretti difensori del mondo. Burnic Facchetti. Tutto di seguito come fosse una parola sola, un concetto fatto di due poli inseparabili che hanno segnato la storia del calcio. Poco dopo la scomparsa del grande amico e compagno di mille battaglie, Tarcisio Burnic lo ricorda così sul Corriere della Sera. Mi mancherà moltissimo. Burnic Facchetti, sa qual è la verità? È che noi questa cosa in comune, questo nome che significa difesa, noi l'abbiamo conquistato. Insieme, sul campo, con la nostra bravura, ma anche fuori. Con la nostra professionalità, la nostra amicizia, la nostra fedeltà. Oggi ci si dimentica spesso di questi valori, della continuità, perché si cambia spesso casacca e si dà importanza ad altro. Giacinto ha rappresentato tutto questo e mi mancherà molto. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. She gets there, she knows, if the stores are all closed, with a word she can get what she came.